mi suicido, io fallisco Radio Belva, come si chiamava, mi suicido, ma è una battuta, magari vi fosse suicidati veramente voi due stronzi, cornuti, Pinocchi, rotti in culo. Dov'è che sta scritto che non ho bisogno di parolacce? La zanzara. Tutto il resto è gioia. Dove sta scritto che non bisogna dire? No, non sta scritto. No, non ho detto gioia. Ciao coppia di pazzi, ciao, buonasera. Ciao ragazzi, sto apprezzando, Vi sto apprezzando. Ma che è la cosa, aspetta, come si chiama? La programma su Radio 24? È una trasmissione bellissima, con tutte le cazzate che dicono, però è piacevole, guardi, è una cosa piacevole. No! Vi ascolta è perché si affeziona a voi, perché non può sentire altre parti dove tutto è leccato, invece qui culo è culo. Questa è Radio 24, vero? Allora, ieri qui alla Zanzara è successa una cosa clamorosa, caro Parenzo. È venuta la benedizione divina per noi che siamo dei miscredenti, siamo gente che dice parolacce, siamo gente che usa il turpiloquio, dicono naturalmente, poi in realtà non è così o in parte è così. E la verità è che diciamo sempre quello che pensiamo e magari lo diciamo in maniera ruvida, in maniera forte, lo diciamo soprattutto io, naturalmente tu sei un po' più precisino, lo diciamo in maniera comprensibile a tutti. È venuta la benedizione divina dall'alto del celeste, come avete già sentito nello splendido montaggio e nella splendida sigla realizzata qui da Pietro La Corte. Però la cosa fondamentale, ma non facciamo nomi, chi se ne frega di La Corte, vado a fare in culo, no? Non ho detto questo, sono io che l'ho detto. In genere quando io faccio dei nomi, la corte è bravo, hai capito? La corte. Vabbè, non c'è bisogno di tornare su. No, perché tu quando uno fa un nome, ma chi se ne frega, ma quello è un cretino, ma quando facciamo nomi, no. Vabbè, la benedizione del celeste, le parolacce i cristiani le possono dire, figuriamoci noi, che tu sei ebreo, io sono ateo. Beh, ma che la maleducazione è un'altra roba. Amico mio, c'entra, ma che c'entra la maleducazione, cazzo, dai, no, eccolo, cazzo, ecco. Da cristiano si è pentito, ma... è un cattolicissimo. Ma i cristiani le parolacce le dicono, se hanno i muscoli le dicono, non è questo il problema, non è questo l'interenza in cristiano. Don Giussani, non si confesserà, io ho firmato, si confessi, andrà a confessarsi, no, per questo, io ho ben altri peccati da confessare. Vabbè, anche questo si confesserà. questo è il turpiloquio, vabbè, ma ormai è diventato così. Vabbè, comune, dice, allora. Sì, molti mi hanno accusato, dovevi picchiare duro su Formigoni, ma scusate, ma non è bello quando uno dice così, cioè non è bello quando uno in qualche modo, no, si massacra da solo o comunque cerca di trovare giustificazione. Poi io l'ho trovato, come dice anche l'amico Fulvio Abbate, quando il Pio Formigoni se ne esce con queste parolacce, stronzi, figli di puttana, teste di cazzo a quelli dell'Alitalia, cose che ognuno di noi vorrebbe dire di fronte a un sopruso delle compagnie di bandiera, dei treni. Il Pio Formigoni con le parolacce, beh, l'estasi è una pippa, quella che Giuliano Ferrara chiamerebbe una pippa. Allora, un amico che non posso, di cui non posso fare il nome, mi ha mandato una immagine. L'immagine è di una mucca che caga per terra su un prato. Beh, mi dirai perché? Belle amicizie. Aspetta, no, un carissimo amico. Sì. Mucca che caga su un prato. Mm. C'è scritto sotto: far Dimmi sapere tu. Ai vegani che la nostra cena caga regolarmente sulla loro. Beh. Amico mio, sofisticatissima. Far sapere ai vegani che la nostra cena caga regolarmente sulla io loro. Capisco tutto, signor Cruciani. Nel giorno in cui l'ISIS conquista Palmira, capisco tutto. Nel giorno in cui l'UNESCO dice ci sarà la distruzione di un grande sito archeologico, sì, chi sì, se ne frega sì, di Palmira, sì, va sì. bene. Chi se ne frega dell'economia italiana, va bene. Va bene. Chi se ne frega di Renzi, ma aprire con una mucca, che defeca, amico mio. Ma di che parliamo? Oh, ieri abbiamo tralasciato la cazzata che Renzi ha detto a Porta a Porta, oggi giustamente il quotidiano da te rifiutato come comico Libero, giustamente ci torna sopra, perché Renzi ha detto una boiata pazzesca, ha detto che se uno vuole andare in pensione prima, se uno vuole andare prima in pensione, prima, alla fine perderà qualcosa come 20-30 euro, una boiata inaudita. Non c'è dubbio. Magari c'è la signora di 62 anni che ha lavorato una vita e che vorrebbe andarsene in pensione. Noi stiamo studiando un meccanismo per dare un pochino di libertà in più, cioè se tu a 61 anni, a 60 anni te ne vuoi andare, accetti magari di prendere 20 o 30 euro in meno di pensione, però magari ti puoi, io dico se ne va la nipotina, poi c'è quella che se ne vuole stare semplicemente a casa perché fatti i suoi, perché è stanca ed è corretto che sia così. Allora, però un'altra cazzata l'ha detta il signor Librandi. Io Librandi lo adoro, perché Librandi di Scelta Civica, detta Sciolta Civica anche da me, e non solo da me, il signor Librandi è ormai restato l'ultimo dei giapponesi, ed è per questo che mi piace, cioè mi piace nella sua follia, nelle sue intemerate. Ieri a Matrix era scatenato, ce l'aveva con tutti, ce l'ho visto e mi sono quasi innamorato di Librandi. Ma non mi sono innamorato di quello che diceva, come al solito un po' esagerato, ma no, mi sono innamorato del modo in cui combatteva. Per esempio, come si fa a sostenere che molti pensionati vogliono rinunciare ai 500 euro del bonus di Renzi, il quale bonus, abbiamo detto, è una cagata pazzesca, è una roba elettorale vergognosa. Detto questo, molti pensieri, alcuni dicono sì, rinuncio, eccetera, per una forma di così, per cazzi loro, ma come si fa a dire che molti pensionati, chiamateci, spero che non siano tanti pensionati in realtà ad ascoltare la zanzara, ma comunque qualcuno ci sarà, non li voglio sopprimere certamente, molti pensionati vogliono rinunciare a 500 euro. Io credo che i cittadini saranno molto più maturi di questi sindacalisti o dei miei colleghi, perché molti si sono già espressi in questo modo, che vogliono rinunciare a questa rivalutazione, perché io penso che rinunciando a 500 euro in due anni a favore dei giovani, questo tratto io ho proposto di fare un fondo dove questi soldi possono andare per aiutare. La proposta. Librandi eccezionale, i pensionati i soldi non li vogliono. Senti come combatteva con una di Forza Italia, la signorina Giammanco. Qualsiasi pensionato ha comunque diritto ad avere, perché ha pagato per avere queste pensioni, ha pagato i contributi, i pensionati allo Stato non li vogliono per avere soldi, queste perché pensioni. Sono ma chi te lo dice? Lo hanno chiamato te, a me non hanno detto questo. Vabbè, forse questo lo sei tu, io. Cioè, secondo Librandi, i pensionati non vogliono i soldi indietro. Cioè, capisci? Quella, la teoria di Librandi è strepitosa. Cioè, secondo il signor Librandi, deputato di Sciolta Civica, i pensionati non vogliono i soldi indietro, quelli che devono essere restituiti dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Ma il vero caso di oggi, caro Parenzo, al di là dei vitalizi su cui torneremo, per carità, perché ragazzi non ci facciamo sfuggire niente, i vitalizi restano sempre un cavallo di battaglia, abolire tutti i vitalizi ora e sempre. Allora, il punto fondamentale è questo: a Padova cosa succede? Nella tua Padova cosa accade? Sì, ne accade una più di... Da quando c'è quel sindaco, ne accade una più di Bertoldo. È vero. Scusami, questo è vero, però su questo bisogna essere contenti. Cioè, da un punto di vista giornalistico, se non accadesse un cazzo sarebbe una noia pazzesca. Da un punto di vista civico, però. Ma che me ne frega, come si chiama quello che ha fatto il montaggio? Quello che ha fatto il montaggio oggi? La Corte, Pietro la Corte. Ma chi se ne frega anche di la Corte, dai. No, aspetta, fermi tutti. A Padova una parrucchiera africana fa pagare di più i clienti bianchi. I clienti, cioè un taglio ottimo. A parte che io col cazzo andrei da uno che mi fa pagare tipo 10 euro. Ma questo è un discorso tuo. 10 euro, come si fa a tagliarsi i capelli per 10 euro? Scusa, tu vuoi ancora meno? Non ho capito. 10 euro, no. Tu vuoi ancora spendere ancora meno di 10 euro? Io pago 25, 30, 35 euro. 20 è il prezzo giusto. Sì, se vai dai cinesi ti tagliano i capelli, poi non sai quello che ti resta. Io ho un barbiere dove vado da sempre e pago 20, 25 euro. Pieno di gente che adesso va dai cinesi a farsi tagliare i capelli, pieno di gente, giustamente, perché costa poco. Certo. Lavorano ogni ora del giorno. Comunque, 10 euro white, 6 euro black. Ma l'ha proprio scritto, 10 euro white, 6 euro black. Bellissimo. Qualcuno, come bellissimo. Ha fatto benissimo. Comunque, spiega il perché questa signora. Ha fatto benissimo. Aspetta che spiega il perché. In nostra cappella di nero, facciamo 10 minuti, tutto è già pronto, senza lavare, senza gel, senza stirare. Hai capito? È quello di bianco dove tagliare 40 minuti, dove lavare, dove stirare, dove fare il gel, tante cose dentro, e per quello io ho fatto così, nero, bianco, preso diverso. Non è che è razzismo, io mai in vita razzismo, capito? Hai capito, Parenzo, traduci bene questa cosa. Mai no, vita mia razzismo, mai vita mia razzismo. La simpatica parrucchiera dice che neri prendono meno tempo. Ma non c'hanno più capelli neri, sì. Poi di solito. No, però li hanno. Però questo fanno, razzismo, perché fanno prima i neri a tagliarsi i capelli? Questo fa benissimo questa cosa, perché così nella città di Bitonci i bianchi, noi uomini bianchi, ci rendiamo conto di che cosa vuol dire essere discriminati. Molto bene. Ma come molto bene? Ma è una cosa ridicola. Sì, certo che è ridicola, ma molto bene. Aspetta, così impariamo. Altro che quello lì fermo. Che sequestra tutto, fermi tutti. Abbiamo con noi il presidente del Consiglio Comunale di Padova, Roberto Marcato, Lega Nord. Ciao Roberto, buonasera. Ciao a tutti, viva San Marco. Ciao a tutti. Che c'è? Ma che c'è San Marco? Marco? Ma no, sì, San Marco. Allora, devi dire viva l'Italia, devi dire ormai, sei alleato di San Marco sempre. Che San Marco? Devi dire viva l'Italia. Su questa ragione Parenzo, devi dire viva l'Italia. Basta. Non è che non puoi dire di viva l'Italia. Mi chiedete un po' troppo, Come troppo? Non puoi dire viva l'Italia. L'argomento non è l'Italia, l'argomento è barbiere. Quindi. Ma è cambiato tutto. Ok, adesso, è cambiato tutto. Siete ormai la Lega Nazionale, dovete fare di via l'Italia. No, siamo Lega Nord. A te l'Italia ti fa. Al primo articolo dello statuto, Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Cioè, tu sei legato ancora. Te sei legato ancora all'indipendenza, diciamo la verità. Ma io sono indipendentista fino al midollo, ci mancherebbe. Per cui l'Italia un po' ti fa schifo, diciamola tutta. No, che mi fa schifo. L'Italia ti fa schifo. Diciamo che non funziona. Ecco, quindi insomma. Vabbè, un po'. Abbiamo provato tutto di più. La bandiera italiana ti fa orrore, dai. No, le bandiere non mi fanno mai orrore. Allora, fermi tutti, abbiamo il traffico, poi torniamo e Marcato ci spiega se il comune intende prendere provvedimenti nei confronti di questa signora africana, Gloria, che ha detto: io taglio i capelli ai neri e ai bianchi, però i neri ci mettono di meno, i bianchi sono un po' più sofisticati. Bellissimo. E dunque 10 euro per i bianchi, 6 euro, quanto cazzo è? 6, oh, sì, 6 euro per i neri. Io mai in vita resistismo, capito? Traffico, veo chi là. La Zanzara. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah. Allora, Roberto Marcato da Padova, Lega Nord, che succede? Un apartheid al contrario, che succede? Ma guarda, cioè, tu immagina se questa cosa l'avesse fatta un barbiere padovano bianco, avesse messo fuori un listino con scritto la differenziazione fra di razza, differenza fra bianchi e neri. Ben immaginate vista. Che cosa sarebbe ben successo. Vista. A Padova avremmo avuto tutti i preti, no, a digiunare, avremmo avuto il Partito Democratico che in piazza, avremmo avuto tutte le onlus del mondo. E aspetta, e sarebbe arrivato anche il prefetto a dire: ma come, non vigilate su questi atti di razzismo? È la solita ipocrisia italiana. Vabbè, insomma, che bisogna fare con questa signora? Che bisogna fare? Beh, insomma, io non è che voglio, per carità, però lei sperlarla dalla città. Ha sbagliato e pagherà. Noi che deve pagare? In che modo deve pagare? Scusi. Beh, insomma, c'è anche una legge che vieta il razzismo in Italia. Adesso dire, lo dite. Cioè, la volete denunciare? Ma questo è razzismo? No, perché allora, scusate. Ma qua è il bue che dà del cornuto all'asino. Da domani faremo entrare in discoteca, magari, allora, i bianchi pagando un po' di più perché i neri hanno ritmo nel sangue. Ma di cosa stiamo parlando? No, però scusami, parlando? Roberto, allora tu l'intenzione è quella di denunciare questa signora. La Lega che invoca alla legge Mancino, per razzismo. Ma come, certo, dai, Roberto, è incredibile. Su. La Lega che invoca la legge Mancino, ma è una roba incredibile. Ma certo. È incredibile, ma certo. Ormai su. Non c'è limite al peggio ormai. Ma no, questa qua bisogna smetterla con questa ipocrisia, perché allora, secondo me adesso hai provato cosa vuol dire razzismo. Non è così grave, ma è grave l'ipocrisia. Perché, ripeto, se l'avesse fatta un qualsiasi cittadino padovano sta cosa qua, questo sarebbe su tutte le pagine dei giornali. Ma se avete chiuso i kebab nella zona della stazione, avrebbe avuto scritte sui muri minacce di morte. Ma questa però ha spiegato questa signora barbiera, la parrucchiera, come diavolo si chiama, Gloria, la signora Gloria, parrucchiera, non so dove, in che quartiere di Padova, stazione, ha detto che siccome i neri, in realtà la giustificazione non è granché, Parenzo, devo dire la verità, siccome i neri, benissimo, al di là delle giustificazioni. Allora, io che peso 115 kg dovrò pagare guardaroba un euro in più perché il mio cappotto è più largo degli altri, ma di cosa stiamo parlando? Ma ben vi sta, cioè, così barba, capite cos'è il razzismo al contrario. Bene, bene, bene. Ma tu andresti a farti tagliare i capelli là da questa signora? Io no, eh. Eh? Io no, perché ho le ragioni. A parte che sei pelato, mi arrangio io. Tu d'accordo, ma se tu fossi, come dire, se tu avessi i capelli, andresti a tagliarti i capelli lì dalla signora Gloria? Non ci pensi nemmeno lontanamente. No, perché come dici tu, sul prezzo mi sembra un po' troppo basso. Troppo basso, 10 euro. Non mi fido tanto. Ecco. Non ti fidi tanto. Non ti fidi. Ma insomma, c'è il caso che la cacciate da Padova, questa qua? Ma no. Figurati. E che ne ma so, figurati. la vuoi denunciare per razzismo? Ma scusami, a Padova. Tre mesi fa, un libico, no, profughi, noi abbiamo i profughi, i figli profughi a Padova. Ma perché non te lo prendi uno a casa tua? Ha coltellato due carabinieri e un giudice l'ha rilasciato mentre i carabinieri erano ancora a pronto soccorso perché ritenuto non pericoloso. Sì, sì. Questa è Padova, cosa vuoi? Ma chi vuoi cacciare? Qua non se ne va nessuno. L'altra sera hai visto a quinta colonna. E questi sono i profughi che no. Cioè, secondo te i profughi sono tutti finti? Nessuno è in cerca di, come dire, fugge dalla guerra, eccetera. I dati ministeriali ce lo dicono: 1 su 10 è profugo. Gli altri sono tutti mezzi clandestini. E dunque delinquenti, e molti delinquenti, no, tu dici. Però insomma, diciamo che la deriva è più facile, perché se sei un clandestino, ovviamente fai fatica a vivere alla luce del sole, ed è più facile che tu finisca nelle mani. Senti, tu che cosa faresti, dato che sei insomma abbastanza corpulento, no? Non sei uno che le manda a dire. E se ti trovassi di fronte quelli che contestano Salvini, quelli dei centri sociali, cosa faresti te? Dimmi la verità, Roberto, dimmi la verità. Diciamo che la reazione fisica è sempre sbagliata e non è nelle mie corde. Però di fronte a un cretino che lancia un sasso di mezzo chilo, oppure uno che tira delle uova, che ne so, che faresti? Uno no, che tira... io tirerei di una gallina direttamente. Che faresti? Gli tira la gallina. Gli tiro la gallina. Dai, vabbè, non ce l'hai in mano, che c'entra, dai, su. Cioè... No, che problema è che non dovrebbe esserti una cosa del genere? Vabbè, ho capito, siccome ci sono i contestatori, Sì, vabbè, d'accordo, però insomma, i contestatori ci sono. L'altro giorno però siete andati, volevate fare una fiaccolata sotto una casa di una vecchina di 90 anni, questo, esatto, che ha deciso di sua sponte di cittadina, di ospitare una vostra cittadina. Ma che male ha fatto sta signora? Gli sta ospitando. Allora, non è che li ha ospitati a casa sua. No, ha ceduto una casa in campagna, come molti altri, no? Ben pensanti. Siccome hanno le case e sono là sfitte da anni, queste qua le affittano scaricando poi eventuali tensioni sui condomini, e quando ci saranno ma dei problemi, secondo voi dov'è che andranno a bussare questi? Quando magari i 7-8 clandestini, ma ve la siete presa con una via, signora di 90 anni problemi, dov'è che andranno a bussare? Alle porte del comune. Ma la vostra è una vostra cittadina di 90 anni, oh, ma di che parliamo? Allora scusa Parenzo, perché te nel tuo condominio, scusa, perché non dici ai tuoi genitori, Parenzo, perché non dici ai tuoi genitori di ospitare un profugo a casa a Padova? No, ma 7, chi c'entra? 8, no, ognuno, ma sarà 7, una scelta, ma dentro, sarà una scelta individuale, scusa, di chi lo vuol fare, no? Sono profughi, sono clandestini. No, sono il caso personale può valere, ma perché non le prendi tu a casa tua uno? Ma figuriamoci, ma neanche, ma no, mi prendo a casa uno, a parte il fatto che devo prendere qualcuno, dare una mano a qualcuno, prendo uno che conosco. Cioè tu un profugo non lo piglieresti mai? Un profugo non lo piglieresti mai? Vabbè, ma quale profugo? Ma non sono profughi, sono clandestini. Fermi tutti. Ciao Roberto, ciao. Pubblicità. Ciao caro, ciao. Lassativo Parenzo e alla defecazio non ci penso. La Zanzara. Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. Oi, buonasera Peppe. Senza controllo sanitario. Vedi Giuseppe, io vorrei scardinare Fabio Fazio. Gli uomini che vanno a letto comprati in cussura. Yeah, faccio un appello agli amici di Padova. Grande appello qui dalla Zanzara. Padova ci ascolta praticamente tutta la città, dai negozi, dai bar, sì, dagli autobus, dalle macchine, da casa di Parenzo, ovunque. Da casa Bitonci. Da casa Bitonci. Allora, amici di Padova, siccome fino adesso, nonostante i nostri sforzi, sto cazzo di parrucchiera Gloria, padovana, nera, bravissima, per carità, un po' diciamo bizzarra per quello che riguarda i prezzi, 10 euro per tagliare i capelli a un bianco, messo nero su bianco, nero su bianco, come scusate, c'è in gioco bello, di parole, sì. Messo nero su bianco, i neri 10 euro, i bianchi 6 euro, bella, ottimo, come cosa, ottimo, ottimo. E l'ha pure scritto nero su bianco, nero sopra il bianco, nero 10 euro, anzi no, bianco 10 euro, nero 6 euro, non l'abbiamo trovata, insomma, sto cazzo di Gloria, che via è, ragazzi, datemi una via a Padova, dopo ditemelo, la via di Padova è dove esercita questa signora meravigliosa, dateci numero di telefono, numero di telefonino, numero di casa, tutto, portate ce l'ha qui, via Nicolò Tommaseo 13 Padova, recatevi, certo, tutti so, lì, so dov'è, zanzarologi, zanzaristi, recatevi tutti. Ma dov'è, che zona è? È la zona via Nicolò Tommaseo, la zona della stazione. Pieno di immigrati? No, la zona della zona della stazione, dai, mandaci tuo fratello o no? C'è da fare, la mia famiglia non è che è al servizio. Mandaci tuo padre, il padre di Parenzi, il padre adesso di posso Parenzi, chiamare avvocato, Beniamino, adesso chiamo avvocato, vabbè, adesso lascia stare avvocato, chiamo, beh, perché qual è il problema, non ho capito, infatti cazzi tuoi, adesso chiamo, vabbè, mio non si può dire che avvocato, ho detto adesso, che chiamo, ho detto che è un mafioso, scusa, ho detto che credo, fa l'avvocato, amico mio, sarebbe gravissimo se avessi detto il contrario, adesso voglio dire, sarebbe una cosa di una gravità inaudita se avessi detto che fa l'avvocato, no, ho capito, ma tu ti rendi conto, ci sarebbe una roba gravissima se avessi detto di, ma perché dovevo dirlo, adesso in viva voce chiamo mio fratello, no, non c'è bisogno di chiamare tuo fratello, ma è a Padova, in Israele tuo fratello, non ma, ho capito, ma perché deve, adesso, ma vedi che sei proprio stupido, ma qual è il problema, no, ma hai detto che andavi in Israele, ma perché c'è la coda di paglia, in Israele per un po', ma appunto, non c'è la coda di paglia, aspetta adesso lo metto in diretta, vediamo se mi risponde il fratello di Parenzo, scusa. Beniamino in diretta, pronto? Alla Zanzara. No, adesso sono io, non la Zanzara. No, lo so, però sei in diretta alla Zanzara, perché quel cretino, quindi qualunque cosa tu dica, ti prego, siccome sei in diretta alla radio, perché Cruciani vorrebbe che tu andassi, no, in Dio, non ho detto Colotto questo, Maseo, dalla parrucchiera a quella di colore che ha proposto il doppio tariffario per i bianchi più caro. Aspetta un secondo che ti metto in viva voce, aspetta un attimo. No, ma va benissimo, va benissimo adesso. O accende la radio, no, aspetta. No, non accende la radio, tu va puoi andare così. Per no, lo so. No, poi posso andare in via Nicolò Tommaseo? Cos'è che è successo? Sai che sono ignorante. No, allora, in via Nicolò Tommaseo c'è questa roba assurda per cui una parrucchiera ha fatto, una parrucchiera di colore, ha fatto un doppio tariffario per cui per i neri costa 6 euro, per i bianchi 10. Allora, se tu... Per i cinesi, che ne so, i cinesi, per i cinesi non si tagliano i capelli, cinesi. Giusta domanda, i cinesi. Non cresco, hai mai visto, allora, un cinese con i capelli lunghi, scusa. Se tu potessi andare lì in diretta per la radio e ce la passi al telefono, questo chiedeva Cruciani. Vabbè, ma non è necessario. Via Nicolò Tommaseo. Sì, quale civico è, Cruciani? 11 13. 11 via Nicolò Tommaseo 13, ce la fai Gloria, andare? Si chiama Gloria. Gloria. Va bene, ma è aperto questo. Ma che ne so, fratello, vai, però verifica, perché cazzo, tutta la famiglia Parenzo mobilitata per Cruciani, ma ti rendi conto? Adesso arriverà. No, facciamo così, fammi un attimo vedere sul navigatore dove sta via Nicolò Tommaseo. Ma che cazzo sta fatto, fratello, è dietro a casa la quest'ora? Stazione, ma non fai nulla facente, è nulla facente. Il sistema mi dice che non è lontano. Ma è nulla facente. Allora vai, dai. Ma è nulla facente sei tu, basta rompere i coglioni alla mia famiglia. Adesso chiediamo a mio fratello Beniamino se può andare. Non fa un cazzo. Dietro la stazione. Sì, dice che non fai niente, però sta studiando la tesi di laurea. È con la fidanzata. Ha 30 anni, ancora disoccupato. Ma che 30 anni che ne ha 20? Ma cosa dici, stupidaggine? Roba incredibile. Puoi andare, Beniamino, grazie. Chiudi. Adesso si dà un'occhiata. Grazie, baci. Il fratello di Parenzo in diretta alla Zanzara. Allora, parliamo però del formigone impazzito di ieri, perché oggi adesso gli dai un gettone anche a lui di lavoro, ma per sì, questa cosa 50 euro dai, così almeno la porta a cena fuori la fidanzata, 50 euro. Come ti permetti? Allora, oggi Formigoni ne ha detto un'altra, sì, delle sue, oltre alla sfuriata di ieri, anche qui alla Zanzara ha spiegato che un cristiano non sta scritto da nessuna parte che non può dire le parolacce, nel Vangelo non c'è scritto, ma risentiamo tutto per un attimo, dai, Formigoni impazzito, risentiamo. Nel Vangelo dice, non c'è scritto che non si può dire parolacce, non si possono dire le parolacce. cioè la reazione dove è di una che sta scritto che non bisogna dire parolacce, eh? Dove che sono scritto, no, ma lo dica più forte anche nel Vangelo, dove forse sta scritto Vangelo, che non Vangelo, bisogna Vangelo, dire Vangelo, no, Vangelo, c'è Vangelo, sì, c'è scritto che bisogna trattare con carità, ma io i dipendenti dell'Italia li ho trattati con carità, ho detto signori non è colpa vostra, so che voi Sì, ripetiamolo fino all'infinito quello che ha detto Formigoni ieri. I cristiani, se hanno i muscoli, dicono le parolacce. Però figuriamoci quanto le possiamo dire noi, che siamo io ateo e Parenzo tutto è tranne che cristiano. Da cristiano si è pentito o no? Ma no, lei è un cattolico, no, è un cattolicissimo. Ma i cristiani le parolacce le dicono se hanno i muscoli. Le dicono, non è questo il problema, non è questo la differenza in cristiani. Don Giussani, non si confesserà. Ho firmato. Si confessi. Andrà a confessarsi, no, per questo. Io ho ben altri peccati da confessare. Vabbè, anche questo si confesserà. Per questo, questo è il tupiloquio. Vabbè, ma ormai è diventato così. Vabbè, comune. Me lo dice. Allora. Dov'è che sta scritto che non bisogna dire parolacce? Dove sta scritto che non bisogna dire? Allora, no, non sta scritto. Oggi però, questa è una cosa seria, eh? Emma Bonino ha detto che è sparita ogni evidenza di cancro all'interno del suo corpo. Sentiamo. Bella. Sentiamo perché c'è la risposta di Formigoni, incredibile anche su questo. Incredibile Formigoni, aspetta, Bonino ha detto che non ha più il cancro. Una buona notizia perché appunto, come avete letto, gli esami clinici e l'attacco, insomma, fatta in questi giorni ha evidenziato una disapparizione di ogni evidenza di cancro. Formigoni dice Emma Bonino è guarita, sparita ogni traccia di cancro. Che ne dite voi che vi proclamate atei? È stata la preghiera di Papa Francesco, no? Io non ci posso credere, ti giuro, non ci posso credere. Cosa c'entra? Adesso Formigoni è divertentissimo, simpatico quando parla della disavventura all'aeroporto. Ma scusa, non ho capito, perché se uno è ateo, cioè allora saranno state le cure, magari, no? Cioè, saranno state le cure. Cioè, le cure che la famosa e tanto bistrattata chemioterapia o qualche altra cosa. Le ortiche. No, le ortiche no, quelle sono si di Grillo. Si è curata con le ortiche, no, come no? Con no, Grillo, perché Grillo. C'è una nuova tecnica. Non si scherza su queste cose. Sì. Ma quello lì è un criminale. Noi facciamo tutto con l'iPad, l'ho detto anche mia moglie. Ma scusi, ma la Bonino avrà fatto delle cure normali? No, sono, non mi faccio entrare su questa. Ha preso l'iPhone, ha messo l'iPhone dove aveva il tumore, è sparito tutto. Ma col no, telefonino. Come l'iPhone, no. Con l'iPad, con ma internet. No, no, dai, non si con la rete, non si dicono queste cose. Ma nella rete, non con le. Ma la chimioterapia non serve. No, ma dai. Tutto nella rete funziona. Ma come nella rete? Che c'entra? Metti l'iPad lì e funziona, si risolve tutto. No, ma non è possibile, dai, su. Lo fanno ovunque in Germania. Ovunque. Ma guardate che lo fanno anche in Germania. Oddio, insomma, dipende che cosa in Germania, eh. Andiamo a Milano, Luca, vai, Luca, 800 24 00 24. Dimmi. Ciao a tu, ciao Beppe, ciao. Ascolti, io vado dai cinesi a miei capelli. Prendo 8 euro. E no, tu no, ma, anche di mancia. No, ma guarda, amico mio, io prima forse ho detto una baggianata. In realtà io non ci vado così perché ho i soldi e voglio spenderli per tagliarmi i capelli più o meno bene, anche se poi me li taglio malissimo perché sono incontrollabili male. I miei capelli. Esatto, sì, esatto. Sì, ma il problema è anche un altro, che tu spendi 25,30 euro, i barbieri hanno pure tolto i giornaletti porno, perché una volta tu andavi al barbiere italiano, che c'è bisogno. Euro. Ma per fortuna hanno tolto i giornaletti porno. Ormai il porno è praticamente una roba accessibile a tutti. Basta avere un telefonino e te vedi YouPorn dalla mattina. Ma perché alla lei sera. Va dal barbiere sì, a vedere i giornaletti porno? Tu scusa. Stavi lì, non posso dire così. Ti guardavi il copo e ti mettevano questo bel cazzone. Ma non c'è, ma sopra, poi. Ma quando. Capi tu col tuo bel cazzone duro, ti mettevi in Luca, ma dai, ascolta. Adesso ci sono i parrucchieri croci. L'uccello troppo. Luca, non si possono dire queste cose. 19:28. Ma dai, su. Io invece vado. Ma smettila di dire stronzate. Ma questo basta, è scemo. Toglietelo via, mandatelo via questo cretino, dai, su. Ma questo è scemo. Si può parlare di sesso in maniera normale, non così alla cavolo, dai, su. Cioè, poi i giornaletti porno, tu dei cose, l'hai mai visto? Ma questo è scemo. Dai, barbiere, l'hai mai visto o no? Ma nei quelli dove vado io sono da banda da nessuna parte. Ma non ci sono mai stati i giornaletti porno. Ma questo è scemo proprio, scemo. Questo è un cretino, dai. Dove andiamo? Mauro Damanto, no, Mauro, no, Mauro, lui, è lui mi sa. Mauro. Mauro. Ascolta. Mauro, dimmi, dimmi. Io posso cominciare subito? Aspetta, aspetta un attimo, aspetta, ti giuro. Non l'ho chiamato io. No, non l'ho chiamato io. Aspetta un attimo. Mauro, attendili. Tanto c'hai 4 telefonini, 500 ricariche, 2 milioni di watt a disposizione. Fermo là, che c'è la borsa. Che c'è adesso? La borsa 19:30. C'è la borsa. Brucida. La zanzara. Sto su col mio taxi, mi sembra di stare al bar. Una cosa favolosa, guarda, sembra di stare al bar tutto il turno. Beh, amici miei, ricordate una leghista, Barbara Beggi, forse a voi il nome non dice niente a nessuno, era un consigliere comunale a Castelfranco Veneto, la quale diede del cesso all'ex ministro Chienghe della mongoloide alla presidente della Camera Boldrini e augurò il cagotto a Matteo Renzi. Vabbè, ma roba vecchia questa qua, roba vecchia. Uno schifo comunque. Dicono, vabbè, ma ogni ma volta, mongo... ma stai tranquillo. Ma poi, scusami, ma si può dare del mongo? Aspetta, stai fermo, stai calmo. Allora, vabbè, che cosa è successo a questa signora? Sembra, da quello che riportano i giornali, però sul web, ragazzi, guardate, ci sono veramente un sacco di bufale sul web, dunque bisogna sempre controllare bene. Comunque sembra che questa qua si sia messa con un nero. Amica mia! Davanti al bambù, non c'è lega che tenga, Parenzo. Davanti al bambù. Non capisco questo. Questo non credo. No, questo credo, questo credo. Oh, Norberto Achille, quello delle Ferrovie Nord di Milano, ha ammesso tutto, dice che restituirà tutti i soldi, o 300-600 mila euro che si è messo in tasca attraverso delle cose vergognose e incredibili. E poi io mi domandavo una cosa, ma perché? Perché il capo delle Ferrovie Nord di Milano, in fin dei conti sì, un'azienda importante che gestisce un po' di soldi, i trasporti nella parte nord del milanese, perché deve avere due cazzo di auto blu? Cioè ne aveva due di auto blu. Pazzesco. Due. A parte che non dovrebbe avere nemmeno una di auto blu. Bisogna ma ne aveva... chiedere all'ex presidente di Regione Lombardia, che era ieri qui, no? Bisognerebbe chiedere a lui. No, ma lui abbiamo chiesto ieri. No, ma perché aveva due auto blu però? No, due auto blu. E bisognerebbe chiedere a lui, dice che non, celeste. Non è lui che controlla queste cose. Due auto blu. Due cazzo di auto blu aveva. Ma vi rendete conto? No, al di là del fatto che poi il FIFI aveva ottenuto non so quante tessere telefoniche che ha dato la moglie ai due figli. Ma una cosa pazzesca. Allora, i pendolari che ogni giorno si fanno il mazzo così sulle Ferrovie Nord di Milano, esatto, secondo me sarebbero autorizzati, siccome questo tizio ha sprecato i soldi loro, i soldi del contribuente, sarebbero autorizzati ad andare sotto casa del signor Norberto Achille e costringerlo con i forconi, con i forconi veri però, a versare immediatamente tutto quello che lui ha messo, 300-600 mila euro, alla Ferrovie Nord di Milano, e forse là no, perché magari si rimangiano ancora. Allora, in Irlanda succede una cosa meravigliosa, caro Parenzo, cioè si voterà per decidere se le unioni gay si possono trasformare in matrimonio, cioè se la Costituzione può essere modificata. E può essere introdotto nella Costituzione il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Già esistono le unioni gay e nel 93, fino al 93, l'Irlanda, e non sto parlando della Tanzania, sto parlando dell'Irlanda, fino al 93 l'omosessualità era considerata addirittura un reato. Era così. In Italia cosa accade? Cioè, mentre nella civilissima e cattolicissima Irlanda, fino al 93 l'omosessualità era un reato, ripeto, un reato, poi hanno introdotto prima l'unione gay e adesso vogliono introdurre il matrimonio addirittura nella Costituzione, e saranno i cittadini a decidere. Bello. Con un referendum, una cosa straordinaria. Da noi i referendum, quando passano, i politici e il Parlamento se ne sbattono i coglioni. Il finanziamento pubblico dei partiti eliminato con un referendum. Bello. L'hanno rimesso. Privatizzazione, no? Della Rai uguale. Miliardi di cose. Abbiamo fatto 40 referendum di libertà, diritto, abolizione della Guardia di Finanza, smilitarizzazione della Guardia di Finanza, perché mi deve attaccare sempre la BIPA, delle Vanella. Droghe, abolizione dello scorpo, l'introduzione dell'esperanto. Abbiamo detto no alla corte e sì alla vita. Abbiamo detto che si può fare inseminazione eterologa, triloga, quadruologa, quinquologa. Abbiamo detto sì a Cruciani, ma anche no a Cruciani, che ha rotto le palle, ma abbiamo riveso il suo diritto. Ma che di c'entra radio adesso? Vabbè, sfumate su Pannella Parenzo, dai, Pannella, si deve sempre intromettere in altre discussioni. Scusate se vi ho disturbato. Hai rotto i coglioni, non è quello. Marco su, scusa. Ma ti ricordi cosa successe con quel cucù? Aspetta, fermo, non mi fare perdere il filo. Però dai. Scusa, fermo un attimo, Berlusconi, l'ultima cosa è importante, però bisogna darla questa notizia. Aspetta, ti stavo dicendo una cosa. Mentre nella cattolicissima Irlanda succede quello che ho detto, cioè si voterà per un referendum sulle coppie gay. In Italia, Renzi rinvia non so quando, a settembre, la legge sulle unioni omosessuali. E di fronte al Campidoglio ci sono personaggi meravigliosi, per carità, come questo qui, che protesta di fronte al fatto che c'era la festa delle coppie gay che fanno questa finta iscrizione nel registro comunale. Non ammetto sta merda! Non ammetto, vi dovete vergognare! Fatelo privatamente, state dentro al... Ma che problema c'hai? Ma io ce l'ho il problema! Io ce l'ho il problema! Ma io sono la gente, avete rovinato l'Italia, li mortacci vostri, avete rovinato l'Italia, sappiano chi zingari con quell'altri. Avete rovinato l'Italia! Questo sembra Brega, Mario Brega. Stupendo, un signore, un pazzo scatenato, Totale. Vabbè, allora Mauro, forza. No, Mauro, Berlusconi ha detto. No, aspetta, Mauro Damanto, va dai, su. Berlusconi. Ma, è più importante. Ma chi se ne frega di quello che ha detto Berlusconi? Dai, non su, sarò oggettivamente. Io a guidare il partito. Saranno le elezioni primarie. Dimmi, ragazzi. Mauro, dimmi. Allora, mi avevi promesso che mi mettevi in diretta con quel coglione di Di Pietro. Con quello vecchio sfigato di Toscani. Sì, ma io non t'avevo promesso nulla, ma chi sei? Con quel testa di cazzo, pezzo di merda di Capanna, che è solo un pagliaccio. No, ma non ho capito. Adesso, che c'entra? C'entrano le persone che hai citato prima, scusa? Perché quelli lì, che cazzo ci stanno a fare? In politica. No, veramente, veramente. Ma veramente che c'entra Di Pietro? Scusa. Non c'è più nessuno di quelli politici. Di Pietro non c'è più. Ascolta, c'è lo schiavetto di Prodi e De Benedetti che si chiama Renzi. Oddio mio, lo schiavetto. Vabbè, ascolta, ma adesso tutti, che c'entra Mauro? Ma cosa c'entra? Tutti, ma tutti credi che la gente sia tutti imbecille, come quelli che chiamano, che Berlusconi ha rovinato l'Italia, che è una gran balla, che le cose, le uniche cose decenti, poche, le ha fatte Berlusconi, fatte quello, sì. Tipo un milione di pensione alle minime le ha fatte lui, senza altre cose che adesso non ricordo. Appunto. Ci rendiamo conto che noi paghiamo 50.000 euro al cognato di De Benedetti, Monti! Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Ma sai quanti miliardi spende lo Stato italiano? Per quelle galline? Ma quali galline? No, per ma scusa, aspetta. Di chi? Di chi stai parlando? Ma di Capanna? Di chi? Rodotà, Monti, Scalfari, il fratello di De Benedetti. No, il fratello di Benedetti che c'entra? Il fratello di Benedetti. Sì. Ma tu hai guardato la Ho guardato l'arena. Certo. Ma guarda che lì sì, io le so queste cose che hanno sempre nascosto. No, Scalfari, tutta gente che ha preso il vitalizio, tutta gente che prende il vitalizio. Che non conta una benemerita minchia. Ma come non conta? Che magari purtroppo contano, questo ma è il problema. Ma cazzo conta? Quando vanno a prendere i soldi, là o in posto, in banca, dove cazzo se li fanno mandare? Sti rotti in culo. Ma di chi stai parlando esattamente? Cerca di identificare. Scalfari, fratelli di Benedetti, Rodotà, amato, Monti. Stai parlando provi, di quelli. Provi, quello sì. È caduto Mario. E io non lo ricercherei. Prego. Antonio dalla provincia di Milano, vai Antonio. Dimmi. Buonasera, grazie per aver chiamato. No, chiamavo anch'io per i vitalizi. Sì. E no, non ce l'ho fatta. La volta che chiamo, non immaginavo mai di chiamare, però mi sono trattenuto con Capanna, ma con quello di ieri sera proprio non ce l'ho fatta. Cioè, Pezzana, una settimana in Parlamento, ex radicale, ha incassato fino adesso circa 650.000 euro, prende più di 2.000 euro per essere stato semplicemente una settimana in Parlamento. Diciamo la verità. Giustamente tu hai detto, questa è la voce di uno che non si vergogna. È quello il punto, questi non si vergognano, questi non li smuoveranno mai né a destra né a sinistra. Ormai, guarda, non mi piace anche per Parenzo, che lui poverino, lui tende sempre a starsene un po' a sinistra, però lui no, ma poverino un corno, poi un po' a sinistra niente, dipende dalle cose. Io ho detto, no, a parte che questi qui oggi non hanno nessun potere, cioè molti di questi non siedono in Parlamento, quindi non è che potrebbero modificarsi una cosa che indubbiamente è a loro vantaggio, ma molti di questi non sono in Parlamento, perché Occhetto ad esempio non è in Parlamento da anni. Due, ci volete far credere che non c'è la possibilità di rinunciare? Ma ci sarebbe, ma cosa vuol dire rinunciare? Ma perché un cittadino italiano rinuncerebbe a una pensione o a un privilegio che ha ricevuto? Non credo, un cittadino italiano qualunque. Ma loro sono italiani tanto quanto gli altri cittadini che hanno approfittato e sono andati in pensione prima, ad esempio, perché ci sono molte persone che hanno lavorato soltanto 3 anni, si chiamavano le baby pensioni, ma bebissime degli anni 80, hanno lavorato 3 anni e hanno preso la pensione intera. Chiedereste a questi di rinunciare? No, chiaramente è uno scandalo. Sì, per questo li si mette in croce? No, e allora perché bisogna rompere le palle con queste notizie vecchie, ma su che persone c'entra, che incidono dai, molto poco sul bilancio dello Stato? Ma questo no, è il punto, ancora con questa storia di stimi vitalizi, mamma mia. Siccome è dovuto dalla legge, e allora è giusto, non è, l'equazione non funziona, è legale ma non è giusto. Ma non è giusto. Ciao Antonio, ma si è detto mille volte. Ciao. Oddio mio, dai. Che noia mortale. Ebro della vittoria di ieri della Juventus in Coppa Italia, è con noi Giampiero Mughini, buonasera. Ciao Giuseppe, ricordati che la mia ebbrezza nella vita non dipende dal risultato di una partita di calcio. Vabbè, Ebro, ma nel senso, Ebro, quando viene, ma purtroppo nella vita ci sono un paio di migliaia di altre cose, vabbè, difficili. Un paio di migliaia non credo, dai. Io adesso direi di sì. Questo io non credo, dai. Te posso elencare. No, ma che cosa c'è meglio di una partita di calcio? Di una vittoria? Meglio di una partita di calcio, o comunque uguale a una partita di calcio. C'è l'arte, la lettura, la cultura, le donne, la pornografia, il cinema, bello, tante cose. Giusto? Sì, molto d'accordo, giusto. Però la goduria che può dare, insomma, quest'anno stai godendo come un pazzo, Giampiero, diciamo la verità. Io non amo il termine godere, che lascia pensare a uno che perda il controllo di se stesso, no, quello come no, nell'orgasmo. Sì. Io non perdo il controllo di me stesso. Cioè, il calcio non è mai come una bella squadra. Non è un orgasmo. Non è un orgasmo mai. Assolutamente no. Sai che invece c'è gente... è vero, scusami se ti interrompo. Prego. Che io riconosco che ieri la Lazio non è stata fortunata. No, beh, certo, questo d'accordo. Però l'orgasmo c'è anche quando uno vince, come dire, anche in maniera, no? In maniera fortunosa. C'è molti. No, non è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. Molti noi abbiamo avuto fortuna, e solo un cieco, un cretino può non riconoscerlo. Io non sono né cieco né cretino. Però molti sostituiscono, Giampiero. Questo bisogna dirlo, molti hanno sostituito, forse questa è la grande stortura del calcio, no? Sì. E nel tifo hanno sostituito le donne con il tifo, e cioè tu il loro... vuoi sostituire questi energumeni, vuoi raffrontare questi energumeni con me? No, assolutamente. No. Ci mancherebbe altro. È più complesso ancora di quello che tu dici. C'è gente che nel calcio riscatta tutte le amarezze, le della sciagure, vita, certo. Le difficoltà di una settimana intera di vita e di lavoro. Non c'è dubbio. Però io inizierei da un'altra cosa. Non so se hai letto in questi giorni quello che quello che viene scritto, che viene detto sui vitalizi. Anche noi ovviamente abbiamo maramaldeggiato su questa cosa qui. Sì. Che te ne pare di questa campagna? Tu intendi per maramaldeggiare accanirsi contro gli stipendi altrui? Bravo, contro bravo. Stipendi altrui che sì, sono determinati da una legge? Esatto. Io sto con Mughini, allora, guarda, al 100%. È facile maramaldeggiare contro gli stipendi altrui. Io dico sempre che ciascuno di noi dovrebbe andare in giro con un biglietto da visita dove c'è scritto quanto guadagna e quanto tasse ha pagato. Ti interessa sapere il mio di biglietto da visita? No, dimmi. L'anno scorso ho avuto un imponibile lordo da 170.000 euro e ne ho pagati 70.000 di tasse. Va bene così? 100.000 la differenza, insomma. 100.000 ti è rimasta la differenza di 100.000. Beh, ma esattamente. Sono tempi magri rispetto al passato, eh? Sono tempi molto magri, per me molto magri, per te non credo, per me molto magri. Rispetto al passato si può dire rispetto che al passato io sono precipitato, ma questo è ovvio. Si può dire un che c'è, le c'è l'età, un po' c'è il fatto che io non ho ammiratori né estimatori. Questo è vero. No, ma ce n'hai tanti in realtà, ce n'hai tanti. No, non ne ho. Tra gli editori, mondo editoriale, eccetera, ecco. Nessuno. Io non ho né un giornale né un rapporto professionale, nulla. Però si può dire che c'è le pezze al culo, no? No, quello no, quello no. Però onestamente, sai, devi tirare la cinghia, devi certe nullità in giro. Certe nullità in giro che penso così meriterebbero più o meno la paga della mia colf. Vedo che invece sono divenuti direttori, vice direttori, esponenti, conduttori. Però scusami, però Gian Piero, facciamo almeno qualche nome, so che no, è sgradevole. So che io i nomi delle persone assenti non lo faccio mai. Beh, però sai, quando uno dice... Se uno presente io ti direi, potrei dire, io il nome di una persona assente non lo faccio no, mai. No, però quando tu però dici... a vedere in giro, tu li vedi, basta guardarli in faccia, insomma è gente che 30 anni fa, bene che vada, faceva il segretario di redazione, bene che vada. E invece adesso tu dici... E invece adesso è divenuto direttore, conduttore, esponente, portavoce. Ma scusa, basta vedere quelli che tu senti sì. in televisione o che parlano anche alla tua trasmissione. Ehi. Gente che non supererebbe certo. la quinta ginnasio. Ecco, però torniamo agli stipendi, alla questione dei vitalizi. Cioè, secondo te il vitalizio è giusto? Cioè, perché io invece lo combatto. Per me c'è una legge che dice: Cruciani ha fatto per 12 anni, ha spalmato per terra la marmellata. E per questi 12 anni, legge, articolo, numero, tal dei tali, gli toccano 100 lire, 1000 lire, 2000 lire, la legge dice questo. Poi la legge si può cambiare. Naturalmente la legge si cambia, però non in base alle campagne faziose di quello o di quell'altro. Si sì, vabbè, d'accordo, però molto giusto. Primo ragionamento. Sì, però Giampiero, adesso su questo primo ragionamento ti dico una cosa. No, vedi quello che dici, io, siccome legge, ieri ho detto legge, le stesse cose. No, ma uguali, tu hai detto, uguale. Tu la pensi come Giampiero su questo? Io non la penso così. Io penso che oltre al fatto che tutte le leggi si possono cambiare, ci sono delle leggi profondamente ingiuste. Profondamente ingiuste. E questa è una legge profondamente ingiusta. A quale legge ti riferisci in particolare? A parte che non è nemmeno una legge, ma un regolamento interno della Camera e del Senato. Cioè, sì. questi signori hanno versato pochi soldi e in cambio. Ricevono un sacco di soldi. Allora, in questi casi che vanno indicati uno per uno e caso tutti. Per caso, non c'è dubbio che la legge cialtrona, certo. Non c'è dubbio che la casta ha premiato se stessa, non c'è dubbio che va cambiata. No, d'accordo. Però io leggo, perdonami se ti interrompo, una campagna contro Achille Occhetto. Esatto. Achille Occhetto, che naturalmente conosco benissimo dai tempi in cui eravamo ragazzi ed eravamo vestiti con una camicia e con un paio di jeans, sia io che lui. Sì. E andavamo a mangiare in una trattoria da quattro soldi. Achille ha fatto il parlamentare, prima il politico di professione e poi il parlamentare per molti, molti, molti anni. Allora... Ricordiamo che Achille ha il merito di aver cambiato quel nome, quell'insegna. Vabbè, ma questo che c'entra? Infamante. Quell'insegna divenuta infamante al Partito Comunista. Il fatto che adesso, leggo sui giornali, lui abbia un vitalizio, chiamiamolo una pensione, come nel caso di tutti noi, di 5.000 euro non mi sembra nulla di esatto. insopportabile. Ma non è insopportabile, nulla, è una vergogna. Nulla. Scusami, Giampiero, è una vergogna. Perché rispetto a quello che lui ha versato, è vero che è tutto a norma di legge, ci mancherebbe pure che è contro la legge. Ma non puoi togliere ex post, scusami, ma che roba ma, è? Ma scusami un attimo. Se è sbagliata, ma è sbagliata per il futuro, ma non è che lo puoi perseguitare ex post. Ma che coglionata. Scusami, è Giampiero, scusa. Però voi sostenete una tesi assurda. La tesi ma è no, che tutto è immodificabile, tutto è immodificabile perché l'ha decretato una legge. Ma se ma fosse no, così, il futuro, se fosse la differenza tra la barbarie e la civiltà è che c'è una legge. Aspetta, che c'è mio fratello in linea. Cioè, tu stai dicendo sì. che, per esempio, la campagna di Libero è una barbarie. Beh, a quanto io ti confesso, da un po' di mesi non leggo più questo giornale che mi ha ospitato così generosamente per tanti anni. Penso che questo giornale faccia delle campagne sbagliate. Perché fa delle campagne sbagliate? Perché in nome dell'attizzamento del popolino, si chiama populismo, fa delle campagne sbagliate, se mi consenti, in questo caso anche volgari. Io penso che la cultura di centrodestra meriterebbe un po' di più, lo dico con molto rispetto verso gli antichi miei amici. Un attimo solo, 800. C'è mio fratello in linea dalla parrucchiera. Aspetta, aspetta, aspetta. Abbiamo, ecco, abbiamo la pubblicità, ragazzi. Che dobbiamo fare? Questa musica del cazzo. Okay. Abbiamo la parrucchiera, abbiamo la pubblicità. Hai mandato mio fratello a fare questa roba. Ho capito, ma che devo fare se c'è questa rottura altro di coglioni? No, la pubblicità non è una rottura di coglioni, è la musichetta che mi rompe il cazzo. Musichetta, e dopo andiamo dalla parrucchiera, dai, su. Chi deve aspettare 5 minuti? Amici miei carissimi, siete in ascolto. La pubblicità. Pubblicità. La zanzara. I'm a real wild one. Wild one. Io mai in vita resistessi, capito? Allora, abbiamo con noi in collegamento Giampiero Mughini, serata pazzesca. Giampiero Mughini che ci sta dicendo la sua sui vitalizi, è assolutamente... La mia, Giuseppe, un'opinione di una semplicità elementare. Beh, certo, una semplicità elementare. Ha ragione, per me andrebbero cancellati, figurati un po'. Aspetta, no, un attimo, Giampiero. Ma non dire così. Ma cosa vuoi cancellare? Dire. Aspetta, fare il barbaro che non sei. Aspetta, Giampiero, aspetta un attimo solo, perché qui abbiamo un altro grandissimo avvenimento. Cioè il fratello di Parenzo, Beniamino Parenzo. Siamo circondati. Non a caso Beniamino Parenzo, sì, davanti forse al negozio della parrucchiera, sì, Gloria. Studente di, laureando in giurisprudenza. Vabbè, non pagato dalla zanzara. Sfruttato. Come? Come dici? Sfruttato dalla zanzara. Sì, sfruttato, sì, dalla zanzara. Era, sì, con la sua fidanzata Miriam a casa sua, tranquillo. Sono ed è stato tuttora con la mia fidanzata Miriam. Ah, Miriam ti ha seguito in questa avventura. Allora, nel quartiere pare in un quartiere pare malfamato di Padova. Sì. E non si dica che lavorano i parenti qui, eh? No, io lo sto dicendo, non ti preoccupare. Sì, malfamato. Vabbè, mi dicono che è un quartieraccio di Padova vicino alla stazione, un quartiere, comunque vabbè, qualcuno. Vabbè, allora bussa un po', dove sei Beniamino? Non ho capito. Sono qua davanti. Bussa un po', sta Gloria? Sì, sì, sta bussando la Saracinesca. È Gloria lei? Lo vedo che è chiuso, però dentro vedo che ci sono delle persone. C'è Gloria? Beh, ha del talento. Grande inviato. Ah, la dipendente, ho capito. Fatti dare il telefonino. Posso parlare con qualcuno dentro? Ah, avete chiuso adesso? No, fatti dare che è mezzo chiuso. Fatti però dare il telefono di Gloria. Vedere. Oppure passaci uno di queste qua. Passaci, dai il telefono, tanto se lo fregano. No, queste. Sono c'è Radio 24 dalla zanzara. Che mi chiedono se c'è Gloria dentro. Le si voleva fare due domande. No, sono un po' diffidenti. No, diffidenza, noi a favore attento, di extracomunitari. Stai attento, tesoro. Noi a favore di extracomunitari. No, non sono io diffidente, loro sono un po' diffidenti. Inizio a diventarlo anche io, se per carità. Ma se mi riparo nel mini market balcanico che c'è qui a fianco. Come mini market? Gloria? Ecco Gloria. Ecco. Ah, non c'è Gloria. Chi è? Un'altra? È Radio 24, la zanzara. Volevano fare due domande, è possibile? Ma lei non c'è. No, ma possiamo farle a lei le domande. Passa, dagli il telefono, dagli il telefono, dagli il telefono, Beniamino, no, passa aspetta, adesso senza pregiudizi, però la cosa è abbassata, non è che faccio il telefono. Che ti frega, dagli il telefono, casomai te lo foto. Dammi il tuo di telefono da dare, scusa. Ma non ce l'ho qua, se no te lo davo. È chiuso, ma non chiuso le cose in faccia. Ma questi qua vanno subito cacciati da Padova, subito. Ma come cacciati? Ma vanno cacciati. Ma perché? Ma cosa stai dicendo? Ma per quale motivo? Ma vanno cacciati subito da Padova questi qua. È un democratico. Ma sono giornalisti che chiedono, bussa un attimo la Saracinesca, fai un po' di casino, fatti cacciare. No, bussato, no, ma non che so ti frega, ancora non sei laureato, non mi c'hai... Mi fanno segnare no. Dicono che alle 8 è chiuso, lo vedo che è chiuso alle 8. Abbiamo capito, sì, ma magari ti menano, ottimo se ti menano, ma stupendo. Come, ottimo? Meraviglioso. Ottimo. Se ti menano è stupendo, picchiato. Se volete vado al mini market balcanico. Ma che ci famo? Sì, dai, che è una grande inchiesta. Ma no, ma bussa lì, rompi i coglioni. Ho bussato e il cellulare, onestamente, avessi il tuo glielo darei, il mio senza pregiudizio. Sempre senza pregiudizi, sempre senza pregiudizi. Vabbè, interrompiamo un attimo il collegamento, sì. Interrompiamo un attimo il collegamento. Va bene. Fratello di Parenzo inviato nelle zone malfamate di Padova alla ricerca di Gloria la parrucchiera, la quale ha messo 10 euro il taglio di capelli per un bianco e 6 euro per un nero. Caro Giampiero, come ottimo puoi ascoltare, stiamo sul pezzo qui, siamo sempre no, non so chi sia questa Gloria, che avevo creduto che fosse un escort e voi voleste, diciamo così, stabilire un contatto. No, apprendo adesso che invece è una questione di taglio dei capelli. Fratelli. Sì, sì. Confesso che non è una questione che mi esalta in un modo pazzesco. No, lo so che a te ti esaltano poche cose nella vita. No, mi esaltano abbastanza cose, poche delle cose che attualmente attizzano il luogo comunismo corrente. Però devo dire che quando si tratta di escort sei sempre, come dire, sei sempre... Io sulle escort ho un interesse, diciamo, intellettuale. Non ho mai frequentato un escort. E perché mai? Non sei mai andato in un bordello? Non sei mai molto, non sono mai stato in un bordello in vita mia. E ho visto, mi ha fatto molto piacere, una delle idee più belle di questo film, che io ritengo un grande film italiano contemporaneo. Qual è? La giovinezza. Ah, un certo, sì. Sorrentino. Sì, sì. C'è tra le tanti personaggi minori ma importanti, sì, nell'albergo che fu quello dove Thomas Mann ambientò La montagna incantata. C'è una escort bruttarella, grassa, molto molto bella. Molto molto bella. Ti affascina. Mi raccomando questo film, perché è un film di cui il cinema italiano contemporaneo deve andare orgoglioso. Applausi, applausi per questa performance di Mughini, che dà un po' di cultura alla Zanzara, dove di solito si parla. Sì, sai, lo faccio gratis, ma lo faccio lo stesso. Magari da settembre lo farai, non lo farai gratis, che ti farò una proposta, che devo fare. Vabbè, ma io però voglio dire una cosa a Giampiero, che è questa. Sì. Il tuo ex giornale, che si chiama, sì, Libero, sì, ha trattato questi signori che prendono, sì, anche io per la verità, ha trattato questi signori che prendono la pensione come i papponi delle pensioni. No, i papponi. Penso che sia un'espressione volgare e stupida. D'accordo, però è il tuo ex giornale. Oddio mio, se tu vuoi imputare a me quello, no, che scrive un giornale al quale ho smesso di collaborare da un anno e mezzo, chiedo scusa. No, per carità, assolutamente no. Però mi pare che un anno e mezzo sia una quantità di... Ma scusa, ma te ne sei andato perché eri schifato da qualche cosa, per caso? No, ho schifato, che termine. Penso che le vie a un certo punto si separino. Io sono stato ospite a lungo prima di Vittorio Feltri e poi di Maurizio Belpietro, e poi a un certo punto le vie si separano. Tra l'altro qualcuno dice che siccome Libero per un certo periodo fino al 2009 ha preso il finanziamento pubblico, sì, poi come tanti altri giornali, poi è stato interrotto, c'è tutta una questione che riguarda come il doppio, tanti altri giornali, come tanti altri come giornali, come l'Unità, come il Foglio, come parecchi altri ancora. Qualcuno dice siccome fanno una campagna contro gli sprechi di Stato, restituisse, sì, Belpietro e Libero, restituissero i soldi. Questo vale lo stesso principio di prima, sì, nel 2009, perché Libero non prende più il contributo statale, sì, da almeno 3 o 4 anni, ed era un contributo, la legge lo assicurava ad alcuni giornali. Non è che tutto quello che la legge dice, altri due importanti, l'Unità e il Foglio. Ma scusa Giampiero, non è che tutto quello che la legge, tu sei uno di quelli che dice siccome la legge ha detto così allora va bene, ma pure il nazismo, no, pure il nazismo aveva delle leggi. Allora io stabilisco da partire da oggi che quelli biondi sono più belli o più stronzi di quelli bruni, non lo so io. Dai su, ma bisogna togliere queste, i vitalizi sono un controsenso, Giampiero, dai su. Ascoltami, sono... Peppino, ti chiamo Peppino, sì, assolutamente, sì, come tu sai, sì, non vedo perché tu abbia un tale accanimento. Ma non è accanimento. Tu chiami vitalizi, si chiamano pensioni. No, esatto, no, sono un'altra, no, cosa. Siccome non sono stupido. Sono enormemente, no, superiore alle pensioni degli italiani. No, enormemente. Non c'è di più. Un attimo, beh, sai, iniziamo un discorso che non finisce mai, perché il discorso sul calcolo delle pensioni è un discorso oggi bruciante, capisci? Un discorso oggi bruciante. Vabbè, ma che c'entra? E io amerei farlo a lungo. Io sono uno che, godendo di un sistema pensionistico basato sul retributivo, sì, perché c'è una legge del 1995, beh, sei un privilegiato che io apparirei un privilegiato. Ma sei un privilegiato, io no? Il culo a chi mi dice questa cosa, capisci? Perché mi ricordo quello che pagavo mese per mese quando ero, ma ho inviato capito, però, speciale di però Panorama. sei privilegiato mese per mese. Allora spacca il culo a me, sei un privilegiato, te lo dico io, sei un privilegiato. Allora ti rispondo subito. Allora, dunque, io innanzitutto non ho mai avuto uno scivolo di un giorno, mi sono pagato la pensione sino all'ultima ora, all'ultimo minuto. Io ho avuto sin dall'inizio, perché sin dall'inizio ero, scusami, una punta del giornale in cui lavoravo, uno stipendio molto alto. No, ma e questo... quindi sai, su quello stipendio molto alto pagavo dei contributi molto alti e non vorrei che qualcuno venisse a rompermi i coglioni. Sono stato chiaro, sono stato troppo molto educato. Chiaro e no, giusto anche. Molto chiaro, però il punto ma è che... io aggiungo questo invece, ragazzi, anche in ma più, va, no? In questo modo avete fottuto, Alvi, avete no, fottuto le pensioni a gente, vabbè, come noi, avete fottuto le pensioni al sistema, dai, ma infatti ha cambiato, infatti salgo su a Milano e ti spacco in due. E vabbè, sarà spaccami in due. Ti spacco in due. Vabbè, d'accordo, ma è così. Come adesso, Peppino, che sai come stanno le cose, quei quattrini che il Sole 24 Ore butta dandoli a te apparenti. No, non li dammi. Mettili un po' da parte e ti fai una pensione integrativa. Ma quello è un altro discorso. Ai tempi miei, c'était presque impossible. Era impossibile. Capisci? Era impossibile la traduzione. Vabbè, un'ultima cosa che ti voglio chiedere alla Juventus: se la Juventus vince la Champions, che cosa fai, Giampiero? Nulla. No, dai, dai, non mi dire nulla. Qualche che cosa. Cosa faccio, nel senso, non sono una spogliarellista, no, questo no, che questo promette. Nella mia anima succederanno delle cose molto importanti. Nella mia apparenza esteriore nulla di nulla. Non c'è più, però scusa, una cosa è, non parli più di calcio, forse. Non parlo più, non vado più nelle trasmissioni sportive, non c'è più niente da dire. Cioè, una volta che hai vinto, no, questa cosa. No, sai perché? Vabbè, per i soldi, vabbè, okay, io l'anno prossimo vorrei invece, ma naturalmente non so, può darsi che io non vada bene, però non mi dispiacerebbe, perché l'anno prossimo è il tentativo della Juve di prendere per la seconda volta nella sua storia il quinto scudetto consecutivo. E allora? E questo mi piacerebbe molto poterlo commentare domenica per domenica, ma sai, probabilmente io invece sono immensamente inferiore a tanti altri che potrebbero commentarlo meglio di me. Però scusa, credo che tu legga il disprezzo che emana dalle mie parole. Beh sì, certo, ma nei confronti di chi questo disprezzo? Scusa. Nei confronti del prossimo mio, nella sua quasi generalità. Però tu disprezzi, troppo il prossimo. Io considero Giuseppe, perdonami, anzi Peppino, perdonami, io nella sua quasi generalità considero il prossimo mio infinitamente al di sotto di ogni sospetto. Cioè, tu pensi che siano tutti dei coglioni alla fine? Cioè, è detto così, è detto in un modo grezzo, però lo sai. Tradotto in cinese antico è più o meno così. Più o meno così. Cioè, chi si salva? Chi si salva? Sì. Questo è il punto. Beh, per esempio, dato che stiamo parlando, vabbè, noi, però, di un siamo nostro amico, vabbè, eccetera, tu hai lavorato con lui, io penso che Pierluigi Pardo sia un fuoriclasse. Oltre quello che c'è, no, ma per esempio, leggo che tu hai detto, cosa dicono adesso Totti, Ziliani, Guido Rossi e tutte le altre teste di cazzo? Non è gente che sta in cima ai miei pensieri. Ho detto questo, poi Guido Rossi è uno che guadagna in un'ora quello che io e te guadagniamo in due anni. Totti è stato uno dei più grandi calciatori italiani dell'era moderna. Ziliani è un'ottima penna del giornalismo sportivo, però poi afflitto da un morbo, sai com'è che c'è chi nasce e ha quel morbo lì, che però con la penicillina si cura, e Ziliani ha un morbo che la penicillina non può curare, l'antijuventinite, è un morbo spaventoso. Vabbè, dunque non fai nulla, meglio sarebbe sarebbe meglio di passare una notte con una pornostar a vincere la Champions League. Non sì, c'è paragone alcuno a favore del triplete. Il triplete sarebbe una cosa, io poi non l'ho mai visto. Una notte con Tori Black è un triplete, che scegli? No, Tori Black e io non abbiamo nulla da dirci, lei è una stupenda ragazza, giovane, eccetera, io sono un povero rudere, non abbiamo nulla da dirci. Tori Black sta nella mia anima e ci sta benissimo, ma nella realtà delle cose io il triplete non l'ho mai vissuto. Vabbè, comunque lo corna, sai che oggi corna. Lo sai che come corna contro all'aver usato il termine triplete. Mi ha esatto, giurato esatto, di non usarlo. Esatto. Non lo voglio usare. Però ti dico una cosa, hai ragione perché porta male. Però porta male. Oggi è uscita una ricerca pazzesca, sì, veramente definitiva in America, anzi in Inghilterra, sulla questione della prostata. So che non ti riguarda più. Però me l'hanno tolta per motivi tumorali. Tumorali, sì. È uscita una ricerca pazzesca che dice che praticamente che con l'eiaculazione almeno una volta ai 21 volte al mese, cioè eiaculando 21 volte al mese, c'è la possibilità di diminuire fortemente la prostata. Ma perdonami Giuseppe, io non lo sapevo e invece eiaculavo solo 20 volte al mese, mi sono rovinato. No, 20, non credo 20 volte al mese, adesso questo non credo. Perché e allora Giuseppe, perché mi fai questa domanda? No, perché domanda? Forse non l'hai fatto abbastanza, questo dico, forse non l'hai fatto abbastanza. Tu dici che non l'ho fatto? No, abbastanza dico, non dico che non l'hai fatto. Dico guarda, che non l'hai... rifletterò a questa cosa che mi stai proponendo e magari ne parliamo la prossima volta. Vabbè, ciao. Pubblicità, pubblicità 800240024 e dopo il Mughini pensiero, ascoltatori, poi una sorpresa pazzesca da Noto. Intanto continua la ricerca, o forse no, del fratello di Parenzo di Gloria, la parrucchiera. Adesso lo richiamiamo, ciao. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. La Zanzara. Gastone da Padova, Gastone da Padova. È finito tuo fratello Parenzo? Non si capisce, vabbè. Chiamalo, no, no, io l'ho sentito prima, ma Gastone chiamalo. Padova, Gastone. Non è che è a tua disposizione. Dimmi, dimmi. Telefonagli, sarà contento. Io stranamente sono d'accordo con Parenzo. Su che cosa? Riguardo la parrucchiera nigeriana. Nel senso che ha fatto benissimo. Doveva chiedere 50 euro, non 10. 50 euro agli italiani. Perché? E a tuoi neri. Perché questa ragazza qui deve comunque lavorare in un paese in cui... il cui sindaco chiude i negozi di kebabari, il cui sindaco fa segnalare i mendicanti per strada. È un paese comunque ormai finito da questo personaggio che comunque ha già lavorato in un paese vicino dove abito io, e quindi ci ha fatto provare il razzismo. Il motivo è molto semplice: il motivo è che lei fa quel cazzo che vuole nel suo negozio. Sì, questo è lei vero. Questo è vero, ma io infatti nel mio negozio faccio pagare chi cazzo voglio, quanto voglio, punto, fine. No, ma questo... se non ti va bene vai a fare in culo un'altra parte, a mio avviso. No, ma questo, su questo hai perfettamente ragione Gastone, cioè la signora nera, di colore, quello che è, può fare pagare 10 euro a un bianco e 6 euro al nero. Se poi il bianco, si offende, se ne va da un'altra parte a farsi tagliare i capelli, quello è il punto. Adesso questi stanno armando il casino, addirittura legge Mancino, razzismo vero e proprio, apartheid. Parliamo di ipocrisia, proprio di padovani, cioè parliamo di ipocrisia. Poi siamo che stufi di queste storie, ma se l'avesse fatto un ragazzo di Padova, un uomo di Padova, cioè i padovani hanno fatto molto di peggio. Ripeto, basta vedere il sindaco come si sta comportando. Vabbè, adesso che i padovani abbiano fatto molto di peggio, così no. detto genericamente è uno sbaglio. Però Gastone, la signora fa quello che vuole. Se dice che con un bianco ci mette di più e con un nero ci mette di meno, farà pagare a quello 10 a quello 6. Sono d'accordo. Punto e basta. Ciao. Allora, abbiamo collegato un signore che è un religioso e si chiama Antonio Staglianò. Buonasera. Più che un religioso sono un vescovo. Il vescovo di Noto. Ma io lo stavo per dire assolutamente. Antonio Staglianò, quanti anni ha lei, signor vescovo? Io compirò 56 anni a giugno. Beh, non è un ragazzino. Anzi, è un ragazzino. Direi proprio di no. Scusa, è giovane però, no? Beh, no. Non lo so, i vescovi mica sono vecchi. Sono diventato vescovo 6 anni fa, Noto, così. Senta Staglianò, ma noi l'abbiamo conosciuta nei mesi scorsi soprattutto per il fatto che lei sul palco addirittura o persino dentro la chiesa si mette a cantare delle canzoni. Che canzoni ha cantato esattamente, così per ricordarlo a chi ci sta ascoltando? Sul palco, nel contesto della giornata diocesana della gioventù, sì, sia l'anno scorso che quest'anno ho cantato queste canzoni di Sanremo, Preferisco Mengoni, che conoscono i ragazzi, Guerriero, sì, Esseri Umani, sì, Fatti Avanti Amore di Neck, ho cantato anche La Cura di Battiato. Ma qual è quella che le piace di più? Ho scelto, ma sai, non è una questione di quella che a me piace, è una questione di quello che serve come testo per il discorso che voglio fare, perché obiettivamente vado sul palco non tanto per cantare, vado sul palco per comunicare. Cioè, come se facessi, come se tu facessi un'omelia, cioè invece di farci il sermone dopo il Vangelo, questa roba qui, tu attacchi con una canzone. Attacco con una canzone, attiro così l'attenzione, poi rifletto un po' sui testi che, sulle parole che, della canzone che i giovani hanno già in mente e nel cuore, su cui magari non riflettono, riprendo quelle parole e ne do un'interpretazione cristiana. Cioè, per esempio, il guerriero, com'è il guerriero? Come fa il guerriero? Ma guarda, guerriero è una cosa straordinaria perché ha una venatura, si dice, cristologica. Ma come fa, per esempio, no, ma così, 30 secondi. Io sono un guerriero e veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e incertezze e così via dicendo. Aspetta che te la metto. Vedi, il mio problema non è tanto cantare, semmai è cantillare, capito? Cioè? Però sul palco ho cantato con delle basi e così. Per esempio quest'anno ho introdotto la GDG, la Giornata Diocesana della Gioventù, avevo 2000 giovani davanti a me, ho introdotto così, tanto per dire, no? Mi presento, dice, quattro parole, io sono ancora qua. Già, e vedete, Vasco Rossi a quanto pare ultimamente si è preso il raffreddore e gli è venuta la depressione. In realtà era ben più di un raffreddore, però lui cercava la vita spericolata. Però poi a un certo punto ha cercato anche qualcosa d'altro, cerca un senso alla vita, come noi tutti cerchiamo un senso alla vita, e poi da lì parlo del senso della vita, della bellezza dell'umano, del rischio, della brutezza, di come meno male che non c'è Bruto, il brutto è il figlio di Cesare, e poi dico, ah, meno male che non c'è Nerone, e magari gli ho cantato pure la canzonetta di Battiato. Meno male che adesso non c'è Nerone, meno male. È ben nato quello, ben nato. Giusto, ben nato. Sì. Quanta paura che mi presi a scuola, quante lezioni da imparare a memoria. Cioè lei a un certo punto all'interno di un discorso, scusa Antonio, all'interno di un discorso parti con una canzone perché ti viene in mente una cosa, ma te le prepari prima queste cose o no? Giornata diocesana il profilo del discorso lo preparo, ma lo preparo come itinerario logico, non scrivo. Però Vasco Rossi non è proprio nulla. Vasco Rossi non è proprio un modello, no? Cioè non può essere un modello. Certamente, però siccome è conosciuto la cosa, Vasco Rossi non l'ho cantato, ho utilizzato soltanto quell'espressione, quattro parole, io sono ancora qua, per dire anche quest'anno faccio la GDG e così via dicendo. Però e sono ancora qua. E che il testo è ancora qua. Già. Allora, ma lei sa nel video, vescovo, scusa, il discorso di Nerone mi è servito a introdurre la questione dell'imbarbarimento che sta avvenendo in Iraq, in Siria, con l'ISIS. Com'è che fa Nerone? Com'è che fa? Meno male che adesso non c'è Nerone. L'ho già cantato, meno male che non c'è Nerone. No, fammela risentire un attimo. Meno male che adesso non c'è Nerone, meno male. Però poi interrogo, dico, ma è vero che non c'è Nerone? Perché i Neroni ci sono sempre. Pensiamo per esempio a tutti quelli dell'ISIS, quello che stanno facendo, crocificano i cristiani. E la cura di Battiato a che ti serve? La cura di Battiato? La cura di Battiato serve per dire che l'ho cantata dopo aver cantato Fatti avanti amore. Aspetta, no? Eccola qua, aspetta. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie. Per esempio, che da oggi incontrerai per la tua via. Ascoltiamo, possiamo parlare? Vai. Cantala insieme a noi. No, ma poco cantare. Dai! Cantare no, io parlo. Canti sempre. Come dico, canto sempre, però mi interessa più parlare, comunicare messaggi. Però no? Scusami Antonio, allora, queste canzoni ti servono per mandare dei messaggi. Qualche reazione negativa c'è stata di qualcuno, no? Nelle alte sfere, o no? Qualcuno non ti ha detto basta ma con queste... Ma nelle alte sfere nessuno mi ha detto niente. Qualche amico dice, ma che fai? Io cerco di spiegare l'operazione di interpretazione, che è legittima nella tradizione della Chiesa, no? Citare poeti, citare la questione un po' scandalosa potrebbe essere che sul versante, diciamo, della cultura io vado a citare le cosiddette canzonette di Sanremo. In realtà bisogna mettere in evidenza che queste che sono definite canzonette non sono proprio solo canzonette. Ma no, certo, quello è giusto. Sono dei testi. Lo sai che adesso mi ha scritto un'amica, Antonio, mi ha scritto un'amica che devi sapere che noi siamo un gruppo di amici sì. Tra questi c'è uno che ha comprato una casa a Noto. Come al centro, al centro, non posso diciamo dire che non si può dire per la diciamo privacy, solo Simone ma no adesso. Ma dai su, no, non si può dire al centro storico di Noto. Credo che sarà pronta quest'estate. Dobbiamo fare una grande cosa al centro storico di Noto. Io sono tra l'altro ho vissuto a Siracusa per vari anni, conosco benissimo Noto. C'è ancora quella pasticceria straordinaria. Che c'entra la pasticceria di Noto? ecco, Sicilia, dove Sicilia. Io mi andavo a fare ogni mattina quella cosa sì. meravigliosa che mi riempivano i cannoli con la ricotta fresca lì la mattina, benissimo, proprio quella pasticceria pazzesca. Potevo anche ricordo. Contemplare da lì la maestosa facciata della cattedrale. Stupendo, andavo su. Stupendo, allora, Antonio Staglianò canta non solo alla giornata diocesana, eccetera, eccetera, anche in chiesa. Voglio chiedergli qualcosa, però, Antonio, sì. Tu per esempio, i gay, no? Il matrimonio, secondo te è una cosa giusta? Ma dal mio versante tu, personale, un'opinione personale. Direi proprio di no, direi no, non come opinione personale, vorrei esprimere anche una posizione, diciamo, cattolica in questo senso. Il matrimonio come matrimonio, noi lo è concepiamo sbagliato. Come no, un matrimonio come contrario, ma noi lo concepiamo dentro una differenza sessuale, per cui l'unione matrimoniale è un'unione. Non Beh, è un, ma un, i tempi sono è... cambiati, amico mio. E vabbè, saranno cambiati i tempi, però la struttura così tanto antropologica dovrebbe restare invariante, nel senso, cioè, che, in che senso, la differenza sessuale noi la percepiamo come le differenze normative, esperienza elementare dell'essere umano. Cioè, tu dici che non vuol dire il che non vuol dire, e lo ribadiamo, che affermare questo significa assumere atteggiamenti ostracizzanti. Vabbè, certo, quello non c'è dubbio. Assolutamente no. Io per esempio ho grandi dialoghi con tante persone, alcune ma delle i gay secondo te sono anche sono omosessuali, ecco, no? Ma secondo te sono un po' disturbati? Cioè, si può guarire dall'omosessualità secondo te? Beh, guarda, che ti devo dire, non so se posso rispondere a questa domanda. No, devi rispondere. Poi potrebbero anche magari, ma l'altra volta leggevo sul giornale che uno psicologo che ha fatto riferimento a una letteratura sulle terapie curative dell'omosessualità è stato processato a Milano ed è stato anche condannato a sospendere la sua diciamo professione per 3 mesi, sì. Semplicemente perché ha una domanda come questa: se dovesse venire un omosessuale a chiederti aiuto perché manifesto un disagio, tu cosa faresti? Quello lì ha risposto: io non mi tirerei indietro, e per questo è stato giudicato. Cioè, secondo te un po' si può guarire, dai, si può guarire. Ma guarda, personalmente, da quel che capisco, bisognerebbe distinguere. Cioè? Bisogna distinguere, perché se noi diciamo che tutti gli omosessuali sono gay, diciamo anche un dato sbagliato, no? Cioè? Ci sono i gay e ci sono gli omosessuali, cioè ci sono i gay che sono omosessuali, diciamo, sintonici, contenti di essere quello che sono, cerco di spiegare. No, ma ho capito, i gay che sono sintonici. Vuol dire sono persone che sono contenti del loro stato, sì. Anche che vivono con gaiezza e normalità e serenità la loro relazione con altre persone. Poi ci sono anche i gay cosiddetti, cioè gay, questi gli omosessuali, che io non chiamerei più gay in termine, ma gli omosessuali distonici, no? Cioè. Distonici, quelli che vivono la loro condizione ma la soffrono, non per discriminazioni sociali o così e perché dicendo, cosa? Ma perché la soffriranno per altri motivi. Io ho delle persone che non sono contenti. Cioè, tu dici queste persone vanno aiutate. Queste persone se chiedono aiuto perché non potrebbero aiutarle. Cioè, vanno curate, dico, dici, vanno curate. Questo lo stai dicendo tu, io non lo sto dicendo. No, è una domanda, vanno curate. No, è una domanda, però la mia sarà una risposta. A un certo punto la risposta dice: allora, se ti vanno curate vuol dire che questa è una malattia, la malattia è stata depenalizzata, io quindi non dico nulla su questo. Vabbè, ma lo pensi, da un certo punto pensi? No, questo non esprimerei quello che penso. No. Se tu la puoi ricavare, vedi tu. Perché no? Perché non puoi dire quello che pensi? No, perché tu parli di cura, tu parli di stare avvocato. Io ho detto quello che ho detto, no? Ho detto che secondo me bisogna distinguere tra gay e omosessuali, e ci sono anche omosessuali non contenti della loro condizione che vanno aiutati, vanno da persone e si fanno aiutare. Capito? Si fanno aiutare. E questi, no, questi poi, bisogna. In questo senso, ma per esempio, parlando... se cura o non cura, perché cura rimanda a un problema di malattia, dicono che non è una malattia. Dicono, bene, io posso anche condividere, non sono né uno psicologo né un medico. Assolutamente. Però tu dici punto di vista, la Chiesa non l'ammette, cioè l'omosessualità per la Chiesa è considerata comunque un peccato, insomma, un peccato mortale, o no? Ma guarda, gli atti omosessuali, come tutti gli atti sessuali fuori dal matrimonio, per la Chiesa cattolica sono peccato. Sì, però fuori, non è che uno è però a maggior ragione allora la sodomia è una malattia. La sodomia, a maggior ragione la sodomia è qualcosa da condannare. Beh, Cioè, da condannare sicuramente sul piano della, del dire peccato o non peccato, questo no, non si può non dirlo su basi bibliche, cioè, un peccato, e su base dottrinale, certo. Ma guarda che tutto ciò che non esprime un gesto d'amore nei confronti dell'altro, quello è un gesto d'amore, la sodomia è un gesto. Tu dici che è un gesto d'amore, anche gli eterosessuali fanno sesso e non si amano, eh? E no, quindi quello non è, ma voglio dire, secondo te si può dire che è innaturale l'omosessualità, innaturale, questo voglio dirti. Guarda, per quel che adesso qui io posso esprimere il mio giudizio, certo. Certamente, siccome io credo che esista un concetto di natura, sì, no? Sì. E credo che questa natura sia determinata diciamo nella differenza fisica, sì, corporea, che non è soltanto morfologica, cioè, che è, certo, anche psicodinamica, e che è anche simbolica dell'essere umano, io credo appunto che la tendenza omosessuale, il comportamento, non l'orientamento, sì, io distinguerei tra orientamento, comportamento e tendenza. La tendenza dovrebbe essere contro natura, come finora stiamo dicendo. Adesso ci vengono a spiegare che la natura non esiste, che è soltanto un costrutto, sì, no, socioculturale, e vediamo questo dibattito filosofico. Però dove è porta? È molto interessante, riprenderemo la prossima volta. Adesso so che hai da fare una cena. Intanto la borsa, grazie, a presto, ti richiamo. Antonio, grazie, ciao. Viva Noto. Io sono ancora qua. Mamma mia, canterà pure le canzoni, amico mio. Ma pensa che li froci. Io sono ancora qua. E adesso la borsa. La zanzara. La prostata, per curarla, l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare. Hai capito? Lo dice sì, o se no fai altre cose. Il British Medical Journal dice 21 eiaculazioni al mese, io sono a 18, quindi 21. Pippe, molte pippe. Io non so dove avesse preso quei dati Grillo, però bisogna dire che su questo aveva ragione, perché anche l'Harvard Medical School, come ho detto prima, in una grandissima indagine, Parenzo, direi un'indagine a questo punto definitiva, e lo possiamo dire giusto quando Giorgio Squinzi è in macchina alle 20:40, no? Alle 20:40 di un tranquillo giovedì sera, Parenzo, sì, ci sei? Certo che ci sono. Allora, è in macchina, sì, e, sì, e rilassa, dobbiamo... tranquillo, dopo una giornata di lavoro intensissima, consigli di amministrazione, eccetera, e si aspetta ad esempio che si parli del DDL anticorruzione, oppure vuole sapere sulla sua radio, giustamente, degli scenari, sì, politici che si aprono con le parole di Berlusconi, che oggi ha detto che ci sarà un nuovo partito e che lui non sarà il leader, oppure siccome è interessato alla cultura vorrà sapere che fine fa Palmira, e invece la trasmissione, oppure della qualcosa sua su Marchionne, vorrei sapere che paga un bonus, bravo, di 80 euro pure, bravo, lui, bravo, certamente, oppure sapere ad esempio che il ragazzo accusato di essere l'attentatore a Tunisi era in realtà a Milano, perché lui si interessa anche di cronaca, il nostro editore, e invece no, amico mio, perché il signor Grugiani cosa ci propone alle 20:41? Vi propongo un sondaggio, un grandissimo sondaggio, in realtà uno studio, su 32.000 uomini americani dell'Harvard Medical School, i quali danno ragione a Grillo, il quale diceva 21 eiaculazioni al mese per evitare guai seri alla prostata. Ebbene, è vero, se uno eiacula almeno 21 volte al mese, hai tra i 40 e i 49 anni? Se tu vieni, diciamola tutta, se tu vieni 21 volte al mese, in qualsiasi modo, certo, bisogna un po' sollecitare, non una roba di 3 secondi, cioè bisogna movimentare. Anche, però non di quelle rapide, insomma di quelle in cui devi lavorare un po'. 21 volte al mese hai un rischio di prendere la prostata largamente inferiore rispetto a qualsiasi altro maschio. Senza controllo sanitario. Beh, adesso senza controllo sanitario. Ma che voce ha questa? Allora, grande scontro Fede Travaglio, anzi Travaglio Fede, Travaglio dalle leccaculo a Fede, nel suo libro Slurp. Sentite come risponde Fede, proprio scontro, è scontro titanico tra i due al telefono, senti. Sì, eccoci. ci sono i leccaculo che ne leccano uno solo, per esempio il povero Emilio Fede che è addirittura tramontato prima di Berlusconi perché non si è riconvertito. Che cosa? Ci sono i leccaculo che ne leccano uno solo, per esempio il povero Emilio Fede che è addirittura tramontato prima di Berlusconi perché non si è riconvertito. Riconvertito in che senso? Lecca figa e lecca culo? Non ho capito. Ci sono i leccaculo che ne leccano uno solo, per esempio il povero Emilio Fede che è addirittura tramontato prima di Berlusconi perché non si è riconvertito. No, ma io mi sono riconvertito e già leccavo la figa da ragazzo, capito? Certo il tuo puzza non lo leccherai mai, capito? Ci sono i leccaculo che ne leccano uno solo, per esempio il povero Emilio Fede che è addirittura tramontato prima di Berlusconi perché non si è riconvertito. Ecco, ho riconosciuto la voce, esattamente. Lo scontro titanico Travaglio. Ma come facciamo ad avere Fede? Queste cassette? Pazzesco. Arriva di tutto qui. Arriva di tutto. Arriva ad alti livelli qua. Arriva di tutto. Allora, questa era la signora Rivelli, credo, no? No, questa è la signora quella che sta controllista. La pezzo pa, la senatrice pezzo pane. No, questa è la Rivelli. No, è la senatrice pezzo pane. Allora, vabbè ragazzi, però fermi tutti, perché la signora Adelina Putin, candidata per Tosi, credo, se non sbaglio, per Zaia. Sì, per Zaia, dunque appoggia Zaia in Veneto, si è Fratelli spogliata d'Italia. Una settimana fa però, credo. Dove si spogliata? Si è spogliata su Facebook, mi ha fatto un selfie, Cruciani, questo selfie è per te, visto che sei interessato ai miei tatuaggi. E c'è lei che si è fatta un selfie completamente nuda, tranne reggiseno e mutandine. Ma dove l'ha mandata? In cui, me l'hanno mandata a me adesso su Twitter, in cui fa vedere tutti i suoi tatuaggi. Guardi, se vuole, signora Putin, se le può fare comodo per la campagna elettorale, può tranquillamente venire qui alla Zanzara a farmi vedere tutti i suoi tatuaggi. Beh, signora Putin, dato che lei dice di essere parente di Putin, ma le faccio un invito ufficiale: venga qui alla Zanzara a Milano, esattamente nella posa in cui hai è adesso. Capito. Così capito, mi fai come vedere lotta, live. Cruciani, come lotta, come mi lotta. Mi fai vedere live questi tatuaggi, ma qui senza io tocchi come nulla. Lotta, qui, come qui. Lotta. Massimo da Varese, 800 24 00 24. La. Sono io? Sì, Massimo, sì, fino a prova contraria è lei. Ok, perfetto. No, io volevo tornare sulla questione dei vitalizi. Premetto che mi sono perso l'ultima parte. Non c'è bisogno di perdere nulla, dimmi, dai. Perfetto. Allora, no, stavo sentendo Mughini che ha detto che, visto che sui vitalizi c'è una legge e quindi la legge va rispettata. Sì. E mi sembra che Parenzo annuiva, cioè è confermato. Ragazzi, se io glielo ho detto chiaro e tondo a Mughini che mi vuole spaccare la faccia, però esatto. Il punto è chiaro: se uno parte dal fatto che c'è una legge, in questo caso in realtà non c'è manco una legge, esatto. Se uno parte che c'è una legge, allora vale tutto, allora vale tutto, allora non bisognerebbe toccare nulla, allora il governo dovrebbe restituire fino all'ultimo centesimo, come magari farà, i soldi ai pensionati. Cioè, voglio dire. Era Parenzo, volevo dire a Parenzo, visto che lui ha detto, Mughini ha detto c'è una legge, quindi va rispettata, voglio dire che anche le leggi razziali erano delle leggi. Certo, ma ha ragione, no, non è una stupidaggine. Ecco l'idiozia, l'iperbole, è una bella iperbole, va bene. Anzi, siccome ho gusto del paradosso anch'io, apprezzo l'uso del paradosso, ma è una stupidaggine. Non è una stupidaggine, è la realtà, è vero. Mega galattica, mega galattica. Ma stupidata che dice Parenzo, ma come fa a paragonare le leggi razziali alla legge sui vitalizi fatta da un altro Parlamento? Magari è una legge sbagliata, ma le leggi razziali non è allora le leggi razziali non erano solo sbagliate, era una legge abominevole che andava contro i diritti dell'uomo. E infatti ho detto che è un paradosso, lo accetto per questo. Non avete capito? Ho detto ho il gusto, ho talmente il gusto del paradosso che accetto la stupidaggine detta da questo simpatico ascoltatore. Se argomentiamo veramente, però no, non entro nel gioco se la argomentiamo, perché va bene. Massimo, abbiamo capito. Mario Campobasso, vai Mario. Ma c'è un velo di ipocrisia su questa storia dei vitalizi, perché io vorrei capire tutti questi che si indignano, sì, se loro al posto dei politici che cosa avrebbero fatto, dici tu, no? Oh, sì, io farei di tutto per tenermeli. Esatto, quindi, certo. Però ragazzi, però perché bravo, guarda, esatto, bravo. Io non lo so, Mario, non mi sono trovato in questa situazione, non mi vorrei trovare. Ragione, il punto è un altro. Esattamente questo. Sono d'accordo con Parenzo, però c'è un velo di ipocrisia su questa cosa. Bravo. No, si cambia la legge, la si mette in condizioni di esatto. arrivare ai ricorsi, esatto. E poi se ne discute, però fin quando è possibile io mi ritengo stretti e me ne fotto. È una cosa di buon senso. Non arriva a fine mese. Lo farebbe chiunque. Ma come te ne fotti di chi non arriva? Ma che vuol dire? Ma, se ma tu non hai... è che dei se ne fotte, ce lo dice, no, come dire. Non posso farmene un carico. No, ragazzi, non è questione di farsi carico, è questione che se qualcuno deve decidere che ci sono dei privilegi insopportabili in Italia, e il vitalizio è uno di questi. E siamo per cui d'accordo. È giusto sia fare le campagne giornalistiche, è giusto prendersela con queste persone quando ti dicono: beh, c'è la legge, ho fatto tutto in regola. No, avanti, sei un fottutissimo privilegiato e sei complice di una truffa, perché è una truffa ai danni dei cittadini. Una truffa colossale. Tu lo sai che ho scoperto oggi? Ho scoperto oggi che questo regolamento interno alla Camera sui vitalizi è stato introdotto nottetempo, credo a metà degli anni 50 e non nel 48, ma a metà degli anni 50 è stato introdotto nottetempo contro la volontà di moltissime persone, dai parlamentari, in maniera surrettizia, senza nemmeno comunicarlo all'esterno. Va bene, come spesso avviene anche delle manovre finanziarie, cioè, non è il caso questo hanno della manovra truffato, però... hanno truffato, è una truffa colossale nei confronti degli italiani che si guadagnano la pagnotta ogni giorno, una truffa colossale. E quelli che ti dicono no, non è vero, che fanno i ricorsi, sono complici di una grandissima truffa, di una enorme truffa, di un latrocinio con i soldi nostri. Questa è la realtà. Sì, ma quello che è consentito è lecito. Ma io non ti sto dicendo che è una truffa dal punto di vista legale, sì. Ma è una truffa comunque. Ma sì, ma io sono consapevole di essere un privilegiato, ma i soldi me li tengo. Ma lascia perdere, d'accordo, certo. Ma è diverso dal, vedi, il chi ha avuto la pensione con il metodo retributivo, non è colpa sua, sono le leggi che hanno consentito, generali che valgono per tutti gli italiani, che hanno consentito il fatto che purtroppo si andava in e pensione. Chi è andato in pensione dopo due anni di insegnamento, è evidente, ad esempio, che non è un criminale lui, e evidente chi è andato in, ma sai quanti sistema, sono è il sono sistema che glielo consentiva. Il vitalizio, quando non cambiano il sistema. Ma il vitalizio non è una pensione, è una roba che si sono decisi loro da soli. Sì, ma io ho capito, ma c'è. Cazzo, c'è una differenza, no? La pensione erano leggi dello Stato. All'inizio l'Italia poteva permettersi qualsiasi cosa, anche di mandare in pensione una persona dopo tre anni. Si poteva permettere di mandare in pensione la gente con un sistema con l'ultimo stipendio, con l'80% dell'ultimo stipendio, ce lo siamo potuti permettere per anni e abbiamo fatto così. A un certo punto è arrivata la mannaia. È un'anomalia. Io sono d'accordo con te. Quello è diverso, quello se lo sono deciso i deputati da soli, ai danni degli italiani, una truffa colossale. Sì, ma io la sfrutterei. E sono vabbè, ma tu la sfrutteresti, ma probabilmente la sfrutterei anch'io nella stessa condizione, per carità. Giovanna, Genova, grazie Mario. Giovanna, ti sentiresti di rubare? Dai, dimmi. Allora, io volevo dire questo. Dai, forza, veloce. Sono stati, se la sono votata di notte in Parlamento negli anni, a metà degli anni 50. Sì. Allora, adesso perché prendersela, per esempio, con Occhetto, che tutto sommato è la persona più onesta che ci sia stata, che sia passata dal Parlamento. Non dico che più vuol onesta, dire la persona più onesta, non ho capito che vuol dire che a differenza di altre non è mai stato. Non è mai stato coinvolto in truffe. Certo. Non è mai stato. Ma non c'entra nulla questo. Quello è un altro discorso, quello della pensione ai condannati. Il signor Occhetto prende 6.000 euro, ha detto ma la cazzata sui figli. Per avere quella è roba. Stato in Parlamento, è stato in Parlamento, però è complice di una colossale truffa. Ma quale complice? Questo vitalizio di 6.000 euro del signor Occhetto, questo ma vitalizio, quale è enormemente superiore alla pensione di qualsiasi italiano abbia versato la stessa ma cifra. Ma non un parlamentare. Ma che appunto perché sono parlamentare hanno versato cifre basse. Hanno preso e prendono pensioni vitalizi enormi e ci sentiamo domani 18:30. Andatevene a fanculo tutti quanti, va. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Corna! Radio 24. La passione si sente. Pippe.